dal primo libro delle cronache. In quei giorni Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per far salire l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i Leviti. I figli dei Leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetri e cimbali, perché levando la loro voce facessero udire i suoni di gioia. Introdussero dunque l'arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantato per essa. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore. Salmo responsoriale dal Salmo 131. Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua potenza. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi dei Lar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua potenza. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua potenza. Seconda lettura. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito di mortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha partorito e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».